L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa che è l'ultima puntata della stagione, diciamo così, autunno-inverno. Poi dalla prossima settimana ci troveremo in forma più breve per parlare di cinema ambientale, come avevo già anticipato. Per ora però manteniamo la formula più lunga di mezz'ora tradizionale e nella prima parte di questa puntata ci dedichiamo a Comieco, che è il Consorzio Nazionale per la Raccolta Differenziata degli Imballaggi in Carta e Cartone. Ne abbiamo parlato di recente per la cartiera dell'Adda. Ora ci torniamo per i dati che vi abbiamo anticipato nei giornali radio e nelle nostre trasmissioni nei giorni scorsi, quelli relativi al rapporto sul 2016. Iniziamo con un breve quadro della situazione che ci traccia il direttore generale Carlo Montalbetti, per poi procedere sugli altri aspetti che emergono dal rapporto. Intanto la grande novità è che dopo una fase di sostanzialmente stallo nella raccolta differenziata, il 2016 ci presenta un balzo in avanti che è oltre il 3%, sono 100.000 tonnellate in più di carta e cartone risparmiate dalla discarica e quindi il dato conclusivo è che abbiamo in Italia raccolto attraverso la differenziata per carta e cartone circa 3.200.000 tonnellate, un dato molto importante che tra l'altro è interessante perché vede una ripresa nella crescita al nord che aveva persino segnato un segno negativo negli anni passati. Qui siamo circa l'1,6% di incremento. Il centro che conferma un trend di crescita, qui abbiamo un 3%, è molto interessante direi, è il dato che riguarda il meridione d'Italia, che ormai si attesta con una crescita che sta sfiorando le due cifre, siamo poco meno del 9% 2016 sul 2015, quindi dal punto di vista della raccolta differenziata gli italiani stanno lavorando sempre meglio. Allora, invece qualche nota più, diciamo, più stonata riguarda la qualità della raccolta ed è su questo che voi interverrete in modo particolare, oltre che sulla raccolta al sud, che sappiamo insomma è un altro focus che mantenete da tempo. Però la qualità... Sono infatti due i punti che giustamente sono stati adesso evidenziati. Uno riguarda la qualità, perché nella raccolta che arriva dalle famiglie abbiamo ancora una presenza di materiale estraneo o improprio che è sopra il 3%, quindi questo vuol dire poi tutta una lavorazione in piattaforma per portarlo invece all'1%, che è diciamo così, il valore per essere poi ben riciclata. E dall'altro abbiamo il meridione d'Italia che presenta eccellenze, cito solo per capirci due casi, Bari e Napoli, e però ancora molte aree che stentano a decollare, e in particolare problematica è la Sicilia e la Calabria. Bari e Napoli vanno molto bene e la Sicilia molto male. Che cos'è che differenzia queste situazioni? Sostanzialmente il punto vero è la determinazione poi degli amministratori pubblici e quindi dei gestori del servizio nella volontà di attivare una raccolta che sia puntuale e costante. Questa è la vera grande differenza. Ci sono ancora molte amministrazioni al sud che sostanzialmente, sia per motivi burocratici sia per miopia in molti casi, proseguono nel vecchio metodo che è la raccolta dell'indifferenziato, il sacco nero e lo smaltimento in discarica. Noi abbiamo casi molto importanti, li abbiamo citati prima, Bari e Napoli, che dimostrano, partendo dalle grandi aree metropolitane, che invece è possibile, scegliendo la carta del porta a porta e scegliendo la carta di una raccolta del cartone presso le utenze commerciali, le piccole utenze commerciali che comunque hanno una produzione importante di cartone, che è possibile migliorare in modo significativo e rapido il tasso di raccolta. Cito su tutti Napoli, che è riuscita nell'arco dell'anno che abbiamo alle spalle di avere un incremento che ha sfiorato il 20%, che è un dato estremamente importante. Senta, non riguarda decisamente Comieco, però le sue parole mi fanno venire in mente che insomma se ci sono ancora amministratori che prendono tutto e buttano in discarica, non solo sono sanzionabili, siamo a livello europeo, ma non si possono sanzionare anche a livello italiano. Voglio dire, poi prendiamo tutti le multe alla fine. Non c'è alcun dubbio che su questo versante c'è da fare molto, e quindi qui ci sono dei problemi che hanno a che vedere con il ruolo che dovrebbe essere di governo e di controllo delle regioni, e dall'altro anche dal punto di vista nazionale, cioè dal punto di vista del governo. Io penso che ci debba essere una rafforzata non solo attenzione, ma anche modalità nuove di tipo sanzionatorio. Il caso della regione, per esempio, guardiamo cosa è successo in Sardegna. In Sardegna la determinazione dell'amministrazione, che a quel tempo era l'amministrazione Soru, di sostanzialmente sanzionare, riducendo drasticamente i contributi sul finanziamenti in materia ambientale a quei comuni che non partivano e non raggiungevano determinati obiettivi di raccolta differenziata, ha dato un cambio significativo alla raccolta, e oggi la Sardegna assieme all'Abruzzo sono le due regioni, chiamiamole del sud, che hanno il maggior tasso di raccolta differenziata. Quindi c'è lo sforzo che deve partire dall'amministrazione, per esempio, regionale, c'è poi il vostro affiancamento, perché voi avete dei programmi di finanziamento specifici su queste aree che hanno bisogno di sviluppare una raccolta differenziata di carta e cartone, no? Assolutamente, cioè accanto al corrispettivo previsto dall'accordo quadro ANCI-CONAI, per il quale noi lo scorso anno abbiamo versato ai comuni oltre 100 milioni di euro, abbiamo deciso come consiglio di amministrazione un investimento straordinario sia verso i comuni di piccola media taglia, quindi attraverso i bandi che facciamo con l'ANCI, ad oggi abbiamo erogato circa 7 milioni di euro, e sono finanziamenti a sostegno dell'acquisto di attrezzature e delle attività di comunicazione. E attraverso invece un vero e proprio piano di sviluppo industriale che abbiamo varato e che ha come interlocutori invece le grandi aree urbane. Anche in questo caso uno stanziamento di 7 milioni di euro, e ad oggi abbiamo erogato, aiutando i comuni o le società che gestiscono per conto dei comuni, a rapidamente acquistare, quindi a partire, contenitori e mezzi. Ad oggi abbiamo sostanzialmente investito oltre 3 milioni di euro. Poi c'è l'altro aspetto, che è quello della rete impiantistica. Su quello ovviamente è tutta una cosa che riguarda più direttamente Comieco, ma non tanto i comuni. Possiamo partire da un dato di fatto: l'Italia nel settore del riciclo di carta e cartone ha una rete eccellente, perché il riciclo è l'arma strategica di questo settore industriale, essendo il nostro un paese ricco ma di boschi poveri, non produciamo la materia prima, cioè la cellulosa, quindi il riciclo è essenziale. In questo caso abbiamo una rete praticamente che innerva tutto il territorio nazionale, con un punto di grande eccellenza che riguarda il distretto cartario della Lucchesia, all'interno del quale si riciclano oltre 1 milione di tonnellate soltanto in quell'ambito. Quindi c'è una rete molto importante che evidentemente fa perno sulla raccolta fatta dai comuni, sull'attività di selezione delle piattaforme, sono oltre 300 diffuse in tutta Italia, e poi sulle cartiere che riciclano e attraverso le bobine, che sono il risultato del riciclo di carta e cartone. Ricordo che nell'imballaggio mediamente il 90% della materia prima utilizzata è data da carta e cartone di riciclo. Dicevo, da queste bobine poi tutta la rete del trasformatori, dalle cartotecniche agli scatolifici, che utilizzano i fogli per realizzare poi scatole, astucci, sacchi, sacchetti. Ho appreso recentemente, visitando la cartiera dell'Adda, che c'era Roberto Di Molfetta con me e mi diceva che apriranno nuove cartiere in Italia. Questo quasi a sottolineare quanto siamo diventati bravi nella raccolta, no? E quindi poi dopo ci sono cartiere che possono lavorare su quello che viene raccolto nelle case e nelle aziende italiane, no? Quindi che tempi hanno queste cartiere di cui abbiamo parlato, si può dire? Ovviamente. Certamente, abbiamo intanto due grandi unità produttive che ritornano ad operare, una è la cartiera Burgo, che sta a Mantova e che oggi non è più Burgo perché è stata acquistata dal gruppo Progest, e che è stata quindi indirizzata diversamente dalla precedente funzione produttiva, che era la carta da stampa, invece a produrre per l'imballaggio, e l'altra è la cartiera di Avezzano, che anche in questo caso sta per essere riattivata per produrre, in questo caso sempre packaging, cioè bobine che poi sono destinate alla produzione di imballaggi. Parliamo di mediamente 600.000 tonnellate di carta da macero che queste nuove unità produttive dovrebbero chiedere al sistema Italia. Quindi si tratta di avere di fronte una importante rinascita produttiva, con anche evidentemente una opportunità per quanto riguarda le carte, il cartone che raccogliamo, che noi stimiamo nel sud possano crescere di almeno altre 600.000 tonnellate nei prossimi anni. Quindi insomma, buone notizie, diciamo. Ultima domanda, come sempre, come tutti gli anni, le chiedo come va l'economia italiana vista dal punto di vista, no, della raccolta di carta e cartone. Certo, noi abbiamo due dati. Allora, un dato è quello della produzione degli imballaggi, che segna positivo, che vuol dire che laddove l'imballaggio, che è un, diciamo, rudimentale però indicatore ma molto veritiero dell'economia nazionale, segna una crescita in punti percentuali, che vuol dire che l'economia sta effettivamente rianimandosi. L'altra è il dato di fatto che si ritrova all'interno delle aree urbane, dove abbiamo, a fronte di un crollo nella produzione dei rifiuti, oggi invece una situazione che va verso un assestamento, il che vuol dire che evidentemente anche i consumi, anche se più consapevoli, quindi con una riduzione comunque in questo caso di comportamento motivata, stanno riprendendo. Quindi questa è l'Italia che verrà, diciamo, no? Abbiamo l'Italia che è in divenire, c'è già, secondo me. È in divenire. Oggi questo è il dato che noi fotografiamo, un'Italia che reagisce molto bene nella gestione della raccolta differenziata, quindi anche qui abbiamo un segnale importante sia sul versante della consapevolezza in tema di sostenibilità e anche di civismo, ma anche un elemento importante in termini di consumo. E dall'altra abbiamo un settore, un apparato produttivo per carta e cartone che evidentemente sta dando dei segnali incoraggianti. Ci fermiamo qui ora. Grazie a Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. Ci ritroviamo tra pochissimo. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Abbiamo poco fa fatto allusione alla raccolta differenziata in Sardegna, una delle regioni partite tardi ma poi decollate in verticale, fortunatamente. Ripartiamo dalla Sardegna per questa seconda parte, in cui parleremo però di GPL. La Sardegna è infatti l'unica regione italiana non metanizzata, lo sarà forse dal 2018. Nel frattempo, per cucinare, per riscaldarsi, si usa il GPL o magari, ed è peggio per l'ambiente, altri combustibili. Questo è stato solo lo spunto per una conversazione con Antonio Arzà, amministratore delegato di Liquigas, azienda della distribuzione del GPL, quindi gas di petrolio liquefatti. Così abbiamo chiarito anche cosa significa GPL. Per quanto riguarda la Sardegna, la materia prima viene fornita dalla produzione in modo prevalente dalla produzione della raffineria Saras, che è locata non distante da Cagliari, esattamente nel comune di Sarroca. E questa raffineria di solito garantisce il fabbisogno di tutta l'isola, sia per la distribuzione che viene effettuata con vendita al consumatore finale, come facciamo noi, sia per garantire anche l'approvvigionamento delle reti cittadine che hanno degli impianti canalizzati con degli stoccaggi importanti e che miscelano il gas di petrolio liquefatto per poterlo fornire poi alle abitazioni, per poterne fare gli usi che se ne fanno comunemente, quindi dall'uso della cucina al riscaldamento dell'acqua e anche al riscaldamento nel periodo invernale. Ecco. Che ha poi, tra l'altro, utilizzando questo sistema, si va anche a impattare molto meno sull'ambiente, perché se no l'alternativa in molti casi sarebbe, ad esempio, il gasolio. Allora, facciamo un chiarimento fondamentale. Di tutte le energie fossili disponibili, i gas, sia quello di petrolio liquefatto, sia il gas naturale, sono quelle che hanno il più basso impatto ambientale, sia da un punto di vista di emissioni di CO2, perché i combustibili gassosi fanno risparmiare mediamente un 30% rispetto alle emissioni di prodotti liquidi come il gasolio, ancora di più rispetto all'olio combustibile, e in più c'è il grande vantaggio, il più importante di tutti, che è quello legato al fatto che le emissioni di polveri sono particolarmente ridotte. Vorrei farle un esempio: un'abitazione normalmente, diciamo, in un'area meteorologica in cui le temperature sono, diciamo, posizionata nel nord Italia, per capirci meglio, un'abitazione consuma circa 460-470 kg di GPL per tutti i suoi fabbisogni di energia, quindi includendo tutti i servizi, acqua calda, cucina e riscaldamento, e emette per un utente che fa questo, emette meno di un grammo di polveri per fare tutto questo in un anno. Se lei pensa che il gasolio emette per fare la stessa attività 3 grammi, quindi tre volte tanto, se poi parliamo delle biomasse, per esempio i pellets della legna, e sono 704 i grammi di polveri emessi in un anno. 704. Se prendiamo la legna, sono 8.550. Ecco, noi spesso non ci rendiamo conto, perché emotivamente siamo portati ad apprezzare, io lo faccio anch'io, non è che io mi ritenga diverso, che un focolare domestico che è azionato da biomassa, da legna, è una cosa particolarmente romantica, per così dire, però se comprendiamo qual è l'impatto che ha sul nostro ambiente, forse varrebbe la pena di cominciare a riflettere su questo. E di utilizzare, secondo me, la legna solo per cucinare la pizza e poche altre cose, e poi per quanto riguarda tutte le attività di riscaldamento e per cucinare, diciamo, l'attività quotidiana, vanno usati sicuramente combustibili gassosi. Ecco, questo non ci sono dubbi in termini ambientali, e ci sono tutti gli studi scientifici che garantiscono che questi sono i dati e scientificamente ineccepibili, ecco. Quindi purtroppo questo non è patrimonio di tutti, ahimè, non è patrimonio soprattutto della politica, che continua a destinare incentivi a chi acquista apparecchiature che invece usano e bruciano biomassa, salvo poi dover destinare ulteriori incentivi per il contenimento delle emissioni delle polveri. Quindi è una cosa veramente priva di qualunque significato, anche perché le risorse, soprattutto in un paese come l'Italia, non sono poi mica così ampie. No, tra l'altro, appunto, certe risorse poi le andiamo a comprare comunque all'estero, cioè non ha assolutamente senso dove disboschiamo magari in Russia o in Slovenia o altrove, non lo so. I paesi dell'est rappresentano una parte prevalente dell'approvvigionamento di biomassa del mercato italiano, ma pensi che il prodotto arriva in grandi quantità sia dagli Stati Uniti che dal Canada. E tra l'altro, se è accettabile il ragionamento che l'utilizzo della biomassa è ritenuto a impatto quasi zero, non è del tutto vero, ma si può accettare come ragionamento semplificato rispetto all'ambiente di CO2, però c'è da dire una cosa: io non è che sia molto contento che i canadesi respirano l'ossigeno prodotto dagli alberi e io invece respiro le polveri che brucia il mio vicino. Ragione, certo, prendiamo la parte peggiore, quella finale. Capisce? Quindi questo mi sembra veramente un non senso, salvo poi rilevare anche da notizie di questi giorni che poi tutte queste attività che sono a bassissimo controllo da parte dello Stato rivelano poi anche degli elementi di evasione di natura fiscale. Proprio la notizia di questa settimana che è stata scoperta un'evasione di IVA di un ammontare notevolissimo, proprio per effetto dei trasferimenti di pellets dai paesi dell'est dell'Europa all'Italia, dove poi naturalmente naturalmente l'IVA non veniva versata, o addirittura venivano chiesti addirittura dei rimborsi con delle società fantasma, vabbè. Ma questa è la degenerazione del sistema, non è l'elemento principale. Certo. Comunque, tornando invece all'elemento principale, che era quello appunto dell'impatto poi sul pianeta, sul clima, eccetera, eccetera, abbiamo delle soluzioni assai migliori, ecco, di quella, no, delle altre possibilità. E soprattutto possiamo dire questo: se tutti siamo d'accordo che si debba andare verso l'utilizzo di energie rinnovabili e quindi maggiormente sostenibili, non ci può essere nessun dubbio che i combustibili gassosi siano la miglior energia oggi disponibile, sia per impatto ambientale che per costo economico, di transizione tra l'attuale economia basata sulle energie fossili e il futuro delle energie rinnovabili. Ecco, su questo non si possono avere dubbi. Ecco. Bello anche che lei abbia sottolineato di transizione, perché comunque appunto dobbiamo puntare sempre più in alto, no? Di anno in anno, e nel frattempo lasciare indietro quello che sappiamo far male. Ecco. Assolutamente sono d'accordo, infatti qui quello che spesso spaventa è che poi, quando a volte a me capita di incontrare anche alti esponenti della pubblica amministrazione o i politici, molti mi dicono: ah, ma sa, noi stiamo pensando alle rinnovabili. Sì, ho capito, va bene, ma ci sono i soldi per sostenerle, perché oggi senza incentivi non si sostengono molte di queste, e poi ci sono i tempi e i modi per poterlo garantire, eccetera eccetera. Cioè, l'Italia spende già 14 miliardi all'anno, è un dato di Nomisma Energia, questo recentemente pubblicato, per sostenere le energie rinnovabili, e spendiamo più o meno quanto la Germania, e abbiamo un bilancio un po' diverso rispetto alla Germania, quindi è anche oneroso, e non bisogna dimenticare che questo poi ha delle ricadute sociali, perché questi incentivi vanno a scapito dello stato sociale, cioè meno scuole, meno pensioni, meno strade, meno tutto. Quindi ecco perché io parlo di transizione, perché anche l'elemento di utilizzo delle risorse, non solo quelle, diciamo, di natura energetica, ma soprattutto di natura finanziaria, deve avere una sua logica e un valido compromesso tra l'impatto ambientale e la loro sostenibilità da un punto di vista economico-finanziario. Sì, certo, no, l'importante è non insistere nel sostenere il passato, ecco. No, questo dobbiamo sicuro, ma infatti suddividere sul presente e il futuro, ecco. Infatti io parlo di transizione, certo, proprio perché ho una visione prospettica e perché mi rendo conto che ci dovrà essere qualcos'altro, ma adesso bisogna fare appunto già delle scelte coerenti, decidendo per quello che è la cosa migliore disponibile oggi. Certo. Allora, e invece, tornando ancora indietro, per chi deve scegliere, e in questa posizione in cui deve scegliere tra eliminare il passato e aspettare un futuro che speriamo fantasticamente rosa e molto vicino, si può fare una scelta come quella del GPL, che ci aiuta a essere sostenibili da un punto di vista ambientale, e tant'è che voi questa proposta la state avanzando agli agriturismi, per esempio, in particolare alcuni, appunto abbiamo nominato prima la Sardegna, ma insomma tutti quelli che non sono raggiunti dalla rete metano in questo momento. C'è un accordo addirittura con Coldiretti per portare avanti questo discorso. Proprio così, e questo ha una sua logica e una sua coerenza, perché noi, essendo tipicamente un'energia che distribuiamo nelle aree chiamate così off grid, cioè quelle non collegate ai network, anche là c'è bisogno di avere energia disponibile a un prezzo competitivo, ma comunque avendo cura del minor impatto ambientale possibile. A maggior ragione tutte le attività economiche legate sia al turismo sia legate anche all'economia vera e proprio, perché l'Italia ha l'industria del food, è uno dei cardini del nostro export, e quindi fornire energia alle aree agricole, alle aree collinari e montane è assolutamente la nostra mission, e noi siamo certi che possiamo essere competitivi oltre che essere sostenibili da questo punto di vista, e questi accordi sono si collocano esattamente in questa logica. E come, però, come lo si porta poi dopo in loco lì? Cioè, appunto, sono zone magari lontane, scomode e così via, è facile, diciamo, poi dopo mettere... Sì. Sì, diciamo che noi abbiamo una flotta di oltre 300 autobotti che è in grado di rifornire i piccoli stoccaggi che realizziamo presso i clienti potenziali o presso le piccole attività sia agricole che di artigianali, che vengono, a cui viene garantito un servizio sostanzialmente equivalente in termini di qualità di servizio rispetto a chi ha il collegamento alla rete. È un servizio più oneroso inevitabilmente, perché essendo una distribuzione fatta ad hoc su veicoli, evidentemente non può costare così poco come costa quella che avviene attraverso le grandi reti di tubazioni che trasportano il gas dai giacimenti fino alle nostre case. Allora, grazie ad Antonio Arzà, amministratore delegato di Liquigas. Chiudiamo qui la nostra puntata e anche appunto la stagione autunno-inverno. Ci sentiamo in forma breve, d'ora in poi, per tutta l'estate. Parleremo di film e docufilm ambientali, ma vi do appuntamento la prossima settimana per sapere esattamente che cosa faremo. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.